Capitolo 26. Thomas Lind deperì a poco a poco e rinunziò alla vita quietamente e discretamente come era vissuto. La moglie fu per lui un'infermiera tenera, paziente, instancabile. A volte Rachel si era mostrata un po' dura con il suo Thomas quando era sano e la sua lentezza e la sua mansuetudine la provocavano. Ma da quando cadde ammalato nessuna voce fu più sommessa della sua, nessuna mano più tenera e abile, né mai fu udita a lamentarsi per una notte insonne. «Sei stata una buona moglie, Rachel», le disse lui semplicemente una volta, mentre lei gli sedeva accanto nella penombra, tenendogli la mano bianca e sottile nella propria, ruvida per il lavoro. «Una buona moglie. Mi spiace di non lasciarti migliori condizioni finanziarie, ma ci penseranno i ragazzi. Sono ragazzi svegli, capaci, come la loro mamma. Una buona moglie. Una buona madre». Poi si era addormentato. E il mattino dopo, mentre l'alba bianca saliva lenta sugli abeti aguzzi nella valletta, Marilla entrò pian piano nell'abbaino a levante e svegliò Anna. «Thomas Lind è morto», bisbigliò. «È appena venuto il garzone a dircelo. Vado subito da Rachel». Il giorno dopo il funerale di Thomas Lind, Marilla si aggirava per Green Gables con un'espressione stranamente preoccupata. Di tanto in tanto lanciava un'occhiata ad Anna, faceva per parlare, poi scuoteva la testa e teneva la bocca chiusa. Dopo il tè, andò a trovare la signora Rachel e al ritorno salì nell'abbaino dove Anna stava correggendo i compiti di scuola. «Come sta oggi la signora Linde?» chiese quest'ultima. «È più calma, più padrona di sé», rispose Marilla, sedendosi sul letto di Anna, procedura che denotava in lei un insolito stato di agitazione, dato che nel codice dell'etica casalinga di Marilla sedere su di un letto dopo che era stato rifatto era un'offesa imperdonabile. «Ma si sente molto sola. Eliza ha dovuto tornare a casa oggi. Suo figlio non sta bene e non si sentiva di rimanere oltre. Quando avrò finito di correggere questi compiti andrò a fare una chiacchieratina con la signora Linde», disse Anna. «Mi ero ripromessa di studiare un po' il latino stasera, ma il latino può aspettare. Immagino che Gilbert Blythe vada all'università quest'autunno», disse Marilla con uno scatto improvviso. «Non piacerebbe anche a te andarci, Anna?» Anna alzò gli occhi a guardarla, sbalordita. «Certo che mi piacerebbe, Marilla, ma non è possibile. Ho idea che possa diventar possibile. Ho sempre sentito in cuor mio che tu dovevi andarci, non ho mai pensato senza rammarico all'idea che tu vi rinunciassi a causa mia. Ma Marilla, non mi è mai dispiaciuto neanche per un minuto di essere rimasta a casa. Sono stata così felice. Questi ultimi 2 anni sono stati impareggiabili. Oh, sì, lo so che ti dichiari soddisfatta, ma non è questo il problema. Dovresti continuare gli studi. Hai risparmiato abbastanza da poterti pagare un anno a Redmond e il denaro ricavato dalla vendita del bestiame basterà per un altro anno. E poi ci sono le borse di studio e altre cose che puoi vincere. E sì, ma non posso andare, Marilla. I tuoi occhi vanno meglio, è vero, ma non posso lasciarti sola con i gemelli. Hanno ancora bisogno di qualcuno che se ne occupi. Non sarò sola. È di questo che volevo parlarti. Ho avuto una lunga conversazione con Rachel stasera, Anna. È terribilmente preoccupata per tante cose. Non naviga in gran buone condizioni, finanziariamente parlando. Pare che abbiano acceso un'ipoteca sulla fattoria 8 anni fa per aiutare il più giovane dei figli a sistemarsi quando è andato all'Ovest, e da allora non sono mai stati in grado di pagare molto di più dell'interesse. E poi, naturalmente, la malattia di Thomas è venuta a costare un mucchio di quattrini, per un verso o per l'altro. Si dovrà vendere la fattoria e Rachel pensa che rimarrà ben poco dopo aver pagato le cambiali. Dice che dovrà andare a vivere con Eliza e le si spezza il cuore all'idea di lasciare Avonlea. Una donna della sua età non si crea facilmente nuovi amici e nuovi interessi. E Anna, mentre parlava, mi è venuto in mente che avrei potuto chiederle di venire a vivere con me, ma ho pensato che era meglio parlarne prima con te. Se io vivessi con Rachel, tu potresti andare all'università. Che te ne pare? Che me ne pare? È come se qualcuno mi avesse regalato la luna e io non sapessi esattamente cosa farne, rispose Anna stordita. Ma in quanto a chiedere alla signora Linde di venire qui, devi essere tu a decidere, Marilla. Sei proprio sicura di averne voglia? La signora Linde è una brava donna, una vicina premurosa, ma ha i suoi difetti, è questo che vuoi dire? li ha naturalmente, ma credo che potrei tollerare difetti ben peggiori piuttosto che vedere Rachel andarsene da Avonlea. Ne sentirei terribilmente la mancanza. È l'unica vera amica che io abbia qui, e senza di lei mi sentirei perduta. Siamo vicine di casa da 45 anni e non abbiamo mai avuto una lite, anche se ci siamo andate molto vicine, quella volta che tu ti sei scagliata contro di lei perché ti aveva detto che eri magra, scialba e avevi i capelli rossi. Ti ricordi, Anna? Certo che me lo ricordo, disse Anna. Non si possono dimenticare cose come quella. Quanto odiai la povera signora Rachel in quel momento. E quando andasti a chiederle scusa, te lo ricordi? Bene, eri un po' irrequieta. Io ero perplessa e sconcertata, non sapevo bene come prenderti. Matthew invece ti capiva, meglio di me. Matthew capiva tutto, disse Anna a bassa voce, come faceva sempre quando parlava di lui. Bene, credo che dovremmo riuscire a non scontrarci, Rachel ed io, se ci metteremo buona volontà. Ho sempre pensato che il motivo per cui due donne non riescono a convivere in una casa è che usano la stessa cucina e si stanno sempre tra i piedi. Ora, se Rachel venisse a stare qui, potrei darle l'abbaino a settentrione come stanza da letto e potrebbe usare come cucina la stanza degli ospiti, se vuole, dato che in realtà non ci serve una stanza degli ospiti. Potrebbe portar lì la sua stufa e i mobili che desidera tenersi, sistemarsi comodamente ed essere del tutto indipendente. Avrà di che vivere di suo, naturalmente. Ci penseranno i figli, sicché in pratica io le darei soltanto l'alloggio. Sì, Anna, per quel che mi riguarda, sarei contenta se Rachel venisse a stare con me. Allora chiediglielo, disse subito Anna. Anche a me dispiacerebbe molto se se ne andasse. E se verrà, continuò Marilla, puoi andare o non andare all'università, come preferisci. Per me sarà una compagnia e farà per i gemelli quello che io non posso fare, sicché non c'è una ragione al mondo per cui tu non debba andare. Anna meditò a lungo quella sera, affacciata alla finestra. Era combattuta tra la gioia e il rammarico. Era giunta finalmente, all'improvviso e quando meno se l'aspettava, alla svolta della via. E dopo c'era l'università e mille speranze e visioni come un arcobaleno, ma Anna si rendeva ugualmente conto che, superata la curva, doveva lasciarsi alle spalle molte dolcezze, tutti i piccoli, semplici doveri e gli interessi che si erano sviluppati in lei negli ultimi 2 anni e che aveva trasformato in cose belle e godibili per l'entusiasmo che vi aveva messo. Avrebbe dovuto rinunciare alla scuola e amava i suoi allievi uno per uno, perfino quelli pigri o indisciplinati, e il solo pensiero di Paul Irving la portava a chiedersi se dopo tutto Redmond fosse davvero una cosa tanto importante. Ho messo un sacco di piccole radici in questi 2 anni, disse Anna alla luna, e quando le strapperò mi faranno male. Ma è meglio andare, credo, e come dice Marilla, non c'è alcuna ragione valida per cui non debba andare. Devo ritirar fuori tutte le mie ambizioni e rispolverarle. L'indomani Anna spedì la lettera di dimissioni e la signora Rachel, dopo una chiacchierata con il cuore in mano fatta con Marilla, accettò, grata, l'offerta di andare a vivere con lei a Green Gables. Preferì, comunque, restare nella sua attuale casa per l'estate. La fattoria non sarebbe stata venduta prima dell'autunno e vi erano parecchi lavori da fare. Certo, non avevo mai pensato di andare a vivere tanto lontano dalla strada quanto lo è Green Gables, sospirò in cuor suo la signora Rachel. Eppure ora Green Gables non mi sembra più così fuori dal mondo come mi sembrava un tempo. Anna ha molti amici e i gemelli ravvivano la casa e in ogni caso preferirei vivere in fondo a un pozzo piuttosto che lasciare Avonlea. Quando vennero divulgate queste due decisioni, anche il generale pettegolezzo destato dall'arrivo della signora Harrison passò in secondo piano. I saggi scuotevano la testa per l'avventatezza del passo compiuto da Marilla nel chiedere alla signora Rachel di andare a vivere con lei. Era opinione comune che non avrebbero legato insieme. Erano entrambe troppo attaccate alle proprie abitudini, ma dei molti infausti pronostici che vennero fatti, nessuno turbò minimamente le parti interessate. Esse erano giunte a una chiara e precisa comprensione dei rispettivi doveri e diritti nella nuova sistemazione e a quelli intendevano attenersi. Non mi mischierò nelle tue cose, né tu nelle mie, aveva detto con decisione la signora Rachel. E in quanto ai gemelli, sarò lieta di fare per loro tutto quello che posso, ma non mi assumo la responsabilità di rispondere alle domande di Davy. Proprio così. Non sono un'enciclopedia, né un avvocato di Filadelfia. Sentirai molto la mancanza di Anna a questo proposito. A volte le risposte di Anna erano strane, almeno quanto le domande di Davy, rispose Marilla. I gemelli ne sentiranno la mancanza, non c'è dubbio, ma il suo futuro non può essere sacrificato dalla sete di informazioni di Davy. Quando farà delle domande, a cui non so rispondere, gli dirò semplicemente che i bambini devono limitarsi ad ascoltare e a non fare domande. È così che sono stata allevata io, e a dire la verità credo che fosse un modo come un altro di tirar su un bambino, nonostante tutte queste nuove idee sull'educazione. Si direbbe che con Davy i metodi di Anna hanno funzionato perfettamente, disse la signora Lind sorridendo. Ha cambiato carattere, proprio così. Poverino, non è poi così cattivo, concesse Marilla. Non mi sarei mai aspettata di affezionarmi a questi bambini come ho fatto. Davy, ti conquista, ha un suo modo e Dora è una bambina adorabile, anche se, non so come dire, un po' monotona. È verissimo. Suggerì la signora Rachel, come un libro nel quale ogni pagina sia identica all'altra, proprio così. Dora sarà una brava persona che dà affidamento, ma non farà mai nulla di straordinario. Beh, fa piacere però avere attorno gente di questo genere, anche se non sono così interessanti come gli altri. Gilbert Blythe fu probabilmente l'unica persona alla quale la notizia delle dimissioni di Anna recò soltanto piacere. Gli allievi la consideravano una vera e propria catastrofe. Annetta Bell, tornando a casa, fu colta da un attacco isterico. Anthony Pye, per sfogarsi, si batté all'ultimo sangue senza aver ricevuto alcuna provocazione con altri ragazzi. Barbara Shaw pianse tutta la notte. E Paul Irving disse alla nonna con aria di sfida di non contare che lui mangiasse la zuppa di avena per almeno una settimana. Non posso, nonna, disse. Non so davvero se riuscirò a inghiottire qualcosa. Mi sento come se avessi un terribile nodo alla gola. Avrei pianto tornando a casa da scuola se Jake Donnell non fosse stato lì a fissarmi. Credo che piangerò dopo essere andato a letto. Non si vedrà dagli occhi domani che ho pianto. Oh sì, sarebbe un tale sollievo piangere. Ma in ogni caso non posso mangiare la zuppa, devo far ricorso a tutta la mia forza d'animo per sopportare questo colpo, nonna, e non me ne resta abbastanza per affrontare la zuppa. Oh, nonna, cosa farò quando la mia bella maestra sarà andata via? Malty Boulter scommette che sarà Jane Andrews a ottenere la scuola. Credo che la signorina Andrews sia molto carina, ma sono sicuro che non capirà le cose come faceva la signorina Shirley. Anche Diana prese la cosa in maniera decisamente pessimistica. Ah, mi sentirò molto sola qui l'inverno prossimo, si lamentò una sera mentre la luna faceva piovere i suoi eterei argentei raggi tra i rami del ciliegio e riempiva l'abbaino di un chiarore dolce di sogno nel quale le due ragazze sedevano e chiacchieravano. Anna sulla bassa sedia d'ondolo accanto alla finestra, Diana seduta alla turca sul letto. Tu e Gilbert sarete via, e anche gli Allan. Il signor Allan pare sarà chiamato a Charlottetown e accetterà naturalmente. È un bel guaio, resteremo senza pastore tutto l'inverno e dovremo sorbirci una lunga sfilza di candidati, di cui la metà non varrà nulla. Spero comunque che non chiamino il signor Baxter da East Grafton, disse Anna con decisione. Ci tiene a essere trasferito, fa dei sermoni così lugubri. Il signor Bell dice che è un pastore della vecchia scuola, ma la signora Lind afferma che non si tratta d'altro che di cattiva digestione. Sua moglie è tutt'altro che una buona cuoca, pare, e la signora Lind sostiene che quando un uomo mangia male 2 settimane su 3, anche la teologia ne risente. Alla signora Allan dispiace moltissimo di andare via. Dice che tutti sono sempre stati così carini con lei da quando venne qui giovane sposa che le sembra di lasciare dei vecchi amici. E poi, lo sai, c'è la tomba del bambino, dice che non sa come potrà fare ad andarsene e a lasciarlo. Era un bimbetto così piccino, di appena 3 mesi. Teme che avrà nostalgia della sua mamma, anche se sa benissimo che non è vero. E non lo direbbe al signor Allan per nessuna ragione al mondo. Dice che è sgattaiolata attraverso il boschetto delle betulle dietro al presbiterio quasi ogni notte fino al cimitero a cantargli la ninna nanna. Mi ha raccontato tutto questo ieri sera mentre ero andata a deporre delle roselline selvatiche sulla tomba di Matthew. Le ho promesso che finché fossi stata ad Avonlea sarei andata a mettere fiori sulla tomba del suo bambino e che in mia assenza ero sicura che ci sarei andata io, suggerì Diana con entusiasmo. Certo che lo farò e li metterò anche sulla tomba di Matthew per amor tuo, Anna. Oh, grazie. Avevo proprio intenzione di chiedertelo. E anche su quella della piccola Esther Gray, per favore, non dimenticarti di lei. Lo sai, ho tanto pensato e sognato della piccola Esther Gray che per me è diventata stranamente reale. Penso a lei come se fosse tornata nel suo piccolo giardino, in quell'angolo fresco, quieto, verde. E mi immagino che se qualche sera di primavera riuscissi ad arrivare furtivamente fin lì, nell'ora magica del crepuscolo, e a camminare in punta di piedi su per la collina della faggeta, in modo che i miei passi non la spaventassero, troverei il giardino come era un tempo. Tutto fiorito di gigli di giugno e di rose primaticce, e con la casetta al di là tutta ricoperta di rampicanti, e la piccola Esther Gray sarebbe là con i suoi dolci occhi e il vento le scompiglierebbe i bruni capelli. Lei andrebbe in giro sfiorando con la punta delle dita i gigli e sussurrerebbe i suoi segreti alle rose, e io mi avvicinerei piano, oh molto piano, e tenderei le mani e le direi: piccola Esther Gray, non vuoi giocare con me, che come te amo tanto le rose? E siederemmo sulla vecchia panca e parleremmo e sogneremmo un poco, o ce ne staremmo semplicemente così in silenzio. E poi sorgerebbe la luna e io mi guarderei attorno. Ed ecco, non vedrei più Esther Gray, né il rampicante sulla casa, né le rose, ma solo un vecchio giardino abbandonato, cosparso di gigli, con il vento che sospira dolorosamente tra gli alberi di ciliegio, e non saprei già mai se era realtà o fantasia. Diana si rannicchiò e appoggiò la schiena contro la testiera del letto. Quando la sua compagna al crepuscolo parlava di fantasmi, tanto valeva avere le spalle al sicuro. Temo che la Società per il Progresso crollerà quando tu e Gilbert ve ne sarete andati, osservò malinconicamente. Oh, non c'è pericolo, ribatté Anna vivacemente, tornando dalla terra dei sogni ai problemi della vita pratica. È troppo ben avviata per questo. Soprattutto da quando sono stati gli anziani a entusiasmarsi. Guarda che cosa hanno fatto quest'estate per i prati e i viottoli. E poi da Redmond io vi seguirò come posso e scriverò una relazione per la società l'inverno prossimo e ve la spedirò. Non guardare le cose con pessimismo e non levarmi il mio piccolo momento di contentezza e di gioia. Quando dovrò partire sul serio, allora sì che mi sentirò alquanto depressa. È più che giusto che ora tu sia contenta. Te ne vai all'università, ti divertirai e farai un mucchio di nuove amicizie. Spero di trovare dei nuovi amici, disse Anna pensosa. La possibilità di allargare il cerchio delle amicizie rende la vita affascinante, ma per quanti nuovi amici io mi faccia, Diana, non mi saranno mai altrettanto cari quanto i vecchi amici, e soprattutto quanto lo è una certa ragazza con gli occhi neri e le fossette. Hai idea di chi sia, Diana? Oh, ma a Redmond ci saranno chissà quante ragazze intelligenti, sospirò Diana. E io sono solo una stupida ragazza di campagna che fa ancora errori di ortografia, anche se so benissimo qual è la forma giusta, appena smetto di pensarci. Beh, certo che questi ultimi 2 anni sono stati veramente troppo belli perché potesse continuare così. So che qualcuno, tuttavia, è contento che tu vada a Redmond, Anna. Vorrei farti una domanda seria. Non irritarti e rispondimi sinceramente. Te ne importa qualcosa di Gilbert? Moltissimo, ma come amico e non per quello che pensi tu, rispose Anna con calma e decisione. Era anche convinta di parlare sinceramente. Diana sospirò. In qualche modo avrebbe voluto che Anna avesse risposto diversamente. Non hai intenzione di sposarti mai, Anna? Ah, forse un giorno, quando incontrerò la persona giusta, rispose Anna, sorridendo con aria trasognata alla luna. Ma come farai a essere sicura che quella che incontri sarà la persona giusta? Insisté Diana. Oh, lo saprò. Qualcosa me lo dirà. Tu lo sai qual è il mio ideale, Diana. Ma a volte gli ideali della gente cambiano. Oh, i miei non cambieranno e non potrei amare nessuno che non mi corrispondesse. E se non lo incontrerai mai? Allora morirò zitella, fu l'allegra risposta, e non direi che di tante morti sia proprio la peggiore. Oh, in quanto alla morte, credo sia piuttosto facile, è vivere da zitella che non mi piacerebbe, disse Diana, senza alcuna intenzione di fare dello spirito. Anche se non me ne importerebbe poi troppo d'essere una vecchia zitella, se potessi essere come la signorina Lavendar, ma non potrei mai. A 45 anni sarò terribilmente grassa. E se ci sono scarse probabilità di un amore romantico per una vecchia zitella magra, per una grassa non ce n'è nemmeno una. Oh! Oh, bada! Nelson Atkins si è dichiarato a Ruby Gillis 3 settimane fa. Ruby mi ha raccontato tutto. Dice che non aveva mai avuto nessuna intenzione di accettarlo, perché chi lo sposa dovrà andare a vivere con i suoi vecchi genitori, ma Ruby afferma che le ha fatto una dichiarazione così bella e romantica che lei è stata sopraffatta dall'emozione. Ma non volendo fare nulla di avventato, ha chiesto una settimana per riflettere. 2 giorni dopo era una riunione del circolo di cucito a casa della madre di lui e sul tavolo del salotto c'era un libro intitolato Guida completa al Galateo. Ruby dice che non sa descrivere quello che ha provato quando in un capitolo dal titolo Il corteggiamento e il matrimonio ha trovato parola per parola la identica dichiarazione di Nelson. È andata a casa e gli ha scritto una lettera di rifiuto carica di un sarcasmo feroce e aggiunge che da allora il padre e la madre si danno il turno per sorvegliarlo perché temono che vada ad annegarsi nel fiume. Ma Ruby è sicura che non hanno nulla da temere, perché nel capitolo Il corteggiamento e il matrimonio c'è scritto come si deve comportare un innamorato respinto e non si parla affatto di annegarsi. E inoltre dice che Wilbur Blair si strugge letteralmente per lei, ma che lei non può farci nulla. Anna ebbe un movimento di impazienza. Mi spiace dirlo perché sembra scorretto, ma Ruby Gillis, come ora, non mi piace. Mi piaceva quando andavamo insieme a scuola e alla Queen's Academy, per quanto mi fosse meno simpatica di Jane, ma durante quest'ultimo anno a Carmody mi sembra così cambiata, così. Lo so, annuì Diana. È la parte dei Gillis che viene fuori, non può farne a meno. La signora Linde dice che se mai è accaduto che una Gillis pensasse ad altro che ai ragazzi, non l'ha mai dimostrato né nelle passeggiate né nella conversazione. Non fa che parlare di ragazzi, dei complimenti che le fanno e che ammattiscono tutti d'amore per lei a Carmody. E lo strano è che questo è vero, ammise Diana con una sorta di risentimento. Ieri sera, quando l'ho vista nel negozio del signor Blair, mi ha sussurrato di avere appena fatto una nuova conquista. Non le ho chiesto chi era, perché sapevo che moriva dalla voglia che glielo chiedessi. Beh, è questo che Ruby ha sempre voluto, immagino. Ricordi che quando era piccola diceva sempre che voleva avere dozzine di spasimanti una volta cresciuta e divertirsi il più possibile prima di sistemarsi? È così diversa da Jane, vero? Jane è una ragazza così carina, sensibile e a classe. Ah, la cara vecchia Jane è un gioiello, convenne Anna. Ma, aggiunse chinandosi a fare una carezza tenera alla manina paffutella e piena di fossette che posava sul cuscino, alla fin fine non c'è nessuna come la mia Diana. Ricordi la prima sera che ci siamo incontrate, Diana, e ci siamo giurate amicizia eterna nel tuo giardino? Abbiamo mantenuto il giuramento, credo. Non abbiamo mai litigato, mai avuto il più piccolo bisticcio. Non dimenticherò mai il brivido che ho provato quando mi hai detto che mi volevi bene. Ero vissuta sola e affamata d'amore per tutta la mia infanzia di orfana. Solo ora comincio a capire quanto sia stata sola e quanto mi sia mancato l'amore. Nessuno mi voleva bene, nessuno voleva essere infastidito da me. Sarei stata infelice se non avessi avuto quel mio strano mondo della fantasia dove ero padrona di immaginare tutti gli amici e l'amore di cui avevo bisogno. Ma quando sono venuta a Green Gables tutto è cambiato. E poi ho incontrato te. Tu non sai cosa abbia voluto dire per me la nostra amicizia. Voglio ringraziarti, cara, cara Diana, ora, qui, per l'affetto caldo e sincero che mi hai sempre dato. E te lo darò sempre, sempre. Singhiozzò Diana. Non amerò mai nessuna, nessuna ragazza, voglio dire, come amo te. E se mai mi sposerò e avrò una bambina, voglio chiamarla Anna.